ossia l'altra faccia della medaglia di un Dio di amore. I nomi attribuiti al Dio della Bibbia sono molti: potente, altissimo, eterno, santo, il germoglio, il geloso, re della gloria, re delle nazioni, redentore. Vi è però un nome non altrettanto noto come gli altri, ed è il termine tremendo. Questo termine si trova generalmente sotto forma di aggettivo, per qualificare una caratteristica dell'Eterno, ma almeno una volta viene usato anche come sostantivo. Lo troviamo nel Salmo 76. Fate voti all'Eterno, al Dio vostro, e adempiteli. Tutti quelli che stanno attorno a Lui portino doni al tremendo. Egli toglie il respiro ai governanti. Egli è temuto dai re della terra. Dato che questo termine generalmente evoca qualcosa di poco piacevole, cioè qualcosa di terribile o spaventevole, e poiché si tratta di una caratteristica del Dio delle Scritture, è più che saggio prendere in esame alcune azioni tremende che il tremendo compie. Per brevità ne ho scelte 10, e cioè che egli 1 maledice, 2 schermisce, 3 è astuto, 4 si adira, 5 diventa un nemico, 6 il suo giudizio è senza misericordia, 7 affligge chi affligge i credenti, 8 umilia, 9 si vendica, 10 non perdonerà mai chi lo rifiuta. 1. Il Dio tremendo maledice, Genesi 2, 1 a 3 e Proverbi 3 e 33. Ora l'Eterno disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. E benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. La maledizione dell'Eterno è nella casa dell'empio, ma egli benedice la dimora dei giusti. Per chi ha una morale cristiana è difficile comprendere che il suo Dio di amore possa maledire. Eppure chi si oppone a un'opera che Dio porta avanti non ottiene il suo favore. Lo dimostra il fatto che tutte le nazioni che si sono ribellate alla fede di Israele sono state distrutte. Anche il popolo di Israele, quando non ha collaborato con l'Eterno, è stato distrutto. Il Dio tremendo manda la sua maledizione in ogni cosa dove non vi è il timore di Dio. Sono parole forti ma vere. Nel nostro immaginario, la maledizione è sempre in termini di interesse e benessere, ma la maledizione di Dio spesso consiste nell'indurimento di cuore, così come troviamo scritto nel libro delle Lamentazioni. Lamentazioni 3:64-65. Del resto, è più grave una malattia o un indurimento del cuore? Una malattia, dirà un incredulo, ecco, per questo non comprende la maledizione di Dio. 2. Il Dio tremendo schernisce Proverbi 3:34, Proverbi 1:24-28. Certamente egli schernisce gli schernitori, ma fa grazia agli umili. Lo schernitore è colui che deride di una certa cosa, e poiché spesso e volentieri le persone deridono il Vangelo e non tengono conto di quello che Gesù ha fatto, allora Dio rende la moneta che riceve. Così quando questi uomini si rivolgono a Dio in preghiera anche con suppliche e lacrime per essere soccorsi, Dio si beffa o schernisce questi schernitori. Chi di noi può dire che il Dio tremendo sbaglia? 3. Il Dio tremendo è astuto. Salmo 18:25-27. Tu ti mostri pietoso verso l'uomo pio e retto verso l'uomo retto. Tu ti mostri puro con il puro e ti mostri astuto col perverso, perché tu sei colui che salva la gente afflitta e che abbassa gli occhi altri. La bellezza del creato è la varietà delle cose. Anche gli uomini non sono tutti uguali, e questa differenza onora Dio. Così troviamo degli uomini che hanno una spiccata caratteristica ad essere devoti, altri ad essere integri, altri ancora ad agire con purezza. Con queste persone Dio si relaziona secondo il loro carattere, in modo che ogni persona conosce una caratteristica di Dio, ma purtroppo vi sono anche delle persone astute che vogliono fare i furbi con Dio. Di queste persone ce ne sono molte, e Dio non viene colto alla sprovvista, e per questo non si lascia trovare da chi non vuole trovarlo e da chi lo cerca solo per passatempo. Possiamo prendere in giro gli uomini o anche noi stessi, ma il Dio tremendo no. 4. Il Dio tremendo si adira ogni giorno, Salmo 7:11 e Nahum 1:1-2. Dio è un giusto giudice e un Dio che si adira ogni giorno contro i malfattori. L'Eterno si vendica dei suoi avversari e conserva l'ira per i suoi nemici. Dobbiamo ripetere che è difficile comprendere un Dio di amore che si adira ogni giorno, ma questo atteggiamento fa parte dell'amore di Dio. Se abbiamo difficoltà a comprendere l'ira di Dio è perché non abbiamo compreso cosa significa amare. Amare non è accondiscendere sempre, ma a volte è anche necessario agire con fermezza. Così, il Dio tremendo ogni giorno compie delle opere nella vita dell'uomo che sono il frutto della sua ira, cioè della sua giustizia. Chi è in grado di comprendere questo? Chi è in grado di comprendere che il Dio tremendo serba lo sdegno con chi presuntuosamente compie il male? A poco servono le preghiere e le funzioni religiose. 5. Il Dio tremendo si converte in nemico, Isaia 63:7-10. Fu il loro salvatore, in tutte le loro angosce. Non fu un inviato, né un angelo, ma lui stesso a salvarli. Nel suo amore e nella sua benevolenza egli li redense. Se li prese sulle spalle e li portò tutti i giorni del passato. Ma essi furono ribelli, contristarono il suo Spirito Santo. Perciò egli si mutò in loro nemico, ed egli stesso combatté contro di loro. È molto facile pensare che una volta posti dalla parte di Dio ci siano sempre garantite la protezione e benedizione da parte sua. Anche il popolo di Israele pensava così, ma ad un dato momento, quando il popolo non faceva la volontà di Dio, l'Eterno cambiò atteggiamento, non fu più dalla loro parte, al punto da diventare il loro nemico. Questo è un aspetto del Dio tremendo che si oppone a chi con ribellione compie il male. 6. Il Dio tremendo usa un giudizio senza misericordia. Giacomo 2:12-13. Parlate e agite, come se doveste essere giudicati dalla legge della libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia, e la misericordia trionfa sul giudizio. Conosco molte persone che quando ascoltano l'Evangelo non lo accettano, ma si appellano alla misericordia di Dio. Dio però non usa la misericordia con tutti, ma solo con chi è stato misericordioso con il prossimo. E questo vale anche per il credente. Il Dio tremendo giudicherà, secondo la legge, colui che avrà usato la legge per condannare il prossimo. E forse ingiusto questo atteggiamento? 7. Il Dio tremendo affligge chi affligge i credenti. 2 Tessalonicesi 1:5-7. Ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio, a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Questa è una dimostrazione del giusto giudizio di Dio, affinché siate ritenuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite, poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono. I cristiani hanno sempre sofferto causa la loro fede, e Paolo vede in questa sofferenza la prova di Dio per verificare la sincerità della confessione di fede. Inoltre Paolo considera come sia cosa giusta fare soffrire chi opprime colui che pone fede in Cristo. Questo aspetto dovrebbe allarmare chiunque, credente e non, dovrebbe portare ognuno ad esaminare come ci si comporta con i figli di Dio. Al Dio tremendo i suoi figli sono preziosi. 8. Il Dio tremendo umilia. Lamentazioni 3:31-33. Poiché il Signore non rigetta per sempre, ma, se affligge, avrà compassione secondo la moltitudine delle sue misericordie, poiché non è volentieri che umilia ed affligge i figli degli uomini. Essere umiliati non è certamente una bella situazione e noi generalmente diamo la colpa al prossimo. È vero che gli uomini umiliano, ma è altresì vero che il Dio tremendo usa le persone che umiliano per i suoi scopi. Se il Figlio di Dio, Gesù Cristo, è stato umiliato, quanto più lo sarà anche chi segue le sue orme. L'amore di Dio porta ad essere afflitti e umiliati coloro che hanno posto fede in Lui, affinché siano partecipi della vita di Cristo, sia nelle sofferenze, sia della gloria futura riservata a coloro che amano. 9. Il Dio tremendo si vendica, Ebrei 10, 28, 31. Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. La vendetta è la forma più ripugnante di odio, ma nel Dio Trino, la vendetta non è altro che l'applicazione di ciò che è giusto. Come vi è la legge secondo la quale si raccoglie ciò che si semina, così il Dio tremendo retribuisce gli uomini secondo le loro opere. Non sono solo parole, perché spesso la vita rivela sofferenza e morte come il risultato dell'odio. Il Dio tremendo non perdona in questa vita. 10. Il Dio tremendo non perdona. Matteo 12, 31-32, Esodo 34, 5-7. Io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà loro perdonata. E chiunque parla contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato. Ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato, né in questa età né in quella futura. Medito spesso su questa parola di Gesù e ogni volta mi viene un brivido. Che Dio non perdoni in questa vita? Certe cose lo si accetta anche, ma che non perdoni e non perdonerà mai chi rifiuta. L'opera di Dio nel suo cuore è una realtà talmente terribile da non poterci dormire sopra. Il Dio tremendo avrebbe potuto evitare di dire questa verità, ma nel suo amore ha voluto avvertire tutti. Affinché chi ora si illude di poter alzare le spalle dinanzi all'opera di Dio e la rifiuta, quando sarà condannato per l'eternità, si è deluso dalla propria stolta illusione. Come si dice, uomo avvisato mezzo salvato, il che vale anche a dire, uomo avvertito mezzo perduto. Se il Dio tremendo ha mantenuto la parola fino ad oggi, la manterrà anche in futuro. Questo è certo perché egli è il Dio tremendo. Marzo 2006. Ellero,